Ecco, allora benvenuti e benvenute a tutti. Procediamo così. Oggi abbiamo il piacere di avere la presenza di Pierluigi e di Antonio, che ci aiuteranno a riflettere sul Cantico dei Cantici con un po' di musica e di canti, no? Questo è molto bello. Ci aiuterà a riflettere sul Cantico dei Cantici Chiara Mori, che oltre che insegnare in una scuola media superiore, lettere, sì, insegna Sacra Scrittura all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Fossano, è una nostra amica e moglie di Sergio, ci segue da parecchi anni, ed è un po' lei che ci ha suggerito nel corso di quest'anno di affrontare una serie di tematiche bibliche per cercare di rispondere fondamentalmente ad una domanda molto molto importante: in che misura le scritture sacre, lette con una certa logica, ci sono di aiuto per vivere meglio? Sostanzialmente è questa la domanda. Noi pensiamo che l'approccio serio, intelligente alle sacre scritture ci sia di grande aiuto per vivere meglio la nostra umanità. Siamo qui oggi per rispondere a questa domanda partendo da questo testo davvero molto intrigante della Sacra Scrittura, del Cantico dei Cantici. Iniziamo con un canto, sì, un canto, poi introdurremo la chiacchierata di Chiara con un bellissimo testo che ci ha fornito ieri pomeriggio. Pensavamo di riuscire a farne la fotocopia, ma ve lo manderemo via WhatsApp, di Sant'Efrem, vissuto attorno ti risponde lui al 200-300, secondo me è più tardi, però adesso in questo momento ti risponde lui. So che è un padre della Chiesa Sira, però un diacono che ha fatto un commento al Diatesseron di Tassera, che è un testo messo insieme da un certo Taziano. Ha messo insieme tutti i quattro i Vangeli, ha fatto un unico Vangelo, no? Prego. Iniziamo con questo. È un canto che si può interpretare come tra due innamorati, o si può anche vedere come un canto a Dio, e si intitola Le notti più matte. Raccolto i fiori più belli per dirti un po' chi sei tu per me. E ho cercato le note più matte per ballare felice con te. E mi sono vestito da festa perché con te sempre restare. E mi sono vestito da festa perché con te sempre restare. Ti ho voluto regalare i miei pensieri e le mie ore, ti ho voluto regalare i miei pensieri e le mie ore, e con te tenere in mano solo l'attimo che ho, e con te tenere in mano solo quest'attimo che ora ho. E ho lasciato per la strada quello che in me non era vero, e ho lasciato per la strada quello che in me non era vero, e così riempirmi il cuore solo del bene che mi vuoi, e così riempirmi il cuore solo del bene che voglio a te. Ho raccolto i fiori più più belli, per dirti un po' chi sei tu per me. E ho cercato le note più alte per ballare felice con te. E mi sono vestito la festa perché con te sempre prestare. E mi sono vestito la festa perché con te sempre prestare. Saint-Effre è vissuto tra il 306 e il 373. Chi è capace di comprendere, Signore, tutta la ricchezza di una sola delle tue parole? È molto più ciò che ci sfugge di quanto riusciamo a comprendere. Siamo proprio come gli assetati che bevono ad una fonte. La tua parola offre molti aspetti diversi, come numerose sono le prospettive di coloro che la studiano. Il Signore ha colorato la sua parola di bellezze svariate, perché coloro che la scrutano possano contemplare ciò che preferiscono. Ha nascosto nella sua parola tutti i tesori, perché ciascuno di noi trovi una ricchezza in ciò che contempla. La sua parola è un albero di vita che da ogni parte ti porge dei frutti benedetti. Essa è come quella roccia aperta nel deserto che divenne per ogni uomo da ogni parte una bevanda spirituale. Essi mangiarono, dice l'Apostolo, un cibo spirituale e bevvero una bevanda spirituale. Colui al quale tocca una di queste ricchezze, non creda che non vi sia altro nella parola di Dio oltre ciò che egli ha trovato. Si renda conto piuttosto che egli non è stato capace di scoprirvi se non una sola cosa fra molte altre. Dopo essersi arricchito della parola, non creda che questa venga da ciò impoverita. Incapace di esaurirne la ricchezza, renda grazie per la immensità di essa. Rallegrati perché sei stato saziato, ma non rattristarti per il fatto che la ricchezza della parola ti superi. Colui che ha sete è lieto di bere, ma non si rattrista perché non riesce a prosciugare la fonte. È meglio che la fonte soddisfi la tua sete piuttosto che la sete esaurisca la fonte. Se la tua sete è spenta senza che la fonte sia inaridita, potrai bervi di nuovo ogni volta che ne avrai bisogno. Se invece, saziandoti, seccasse la sorgente, la tua vittoria sarebbe la tua sciagura. Ringrazia per quanto hai ricevuto e non mormorare per ciò che resta inutilizzato. Quello che hai preso o portato via è cosa tua, ma quello che resta è ancora tua eredità. Ciò che non hai potuto ricevere subito a causa della tua debolezza, ricevilo in altri momenti con la tua perseveranza. Non avere l'imprudenza di voler prendere in un sol colpo ciò che non può essere prelevato se non a più riprese, e non allontanarti da ciò che potresti ricevere solo un po' alla volta. Grazie Chiara per questo bel testo che ci hai segnalato. Grazie. Allora, grazie a voi di essere venuti in questa domenica mattina assolata, magari c'erano attrattive migliori, però vi ringrazio di essere comunque venuti qui. Questo testo perché l'ho scelto? Perché secondo me è adatto a ciò che andremo a studiare, soprattutto a studiare, ad approfondire, a conoscere. Soprattutto mi piaceva questi passaggi, mi piacevano. Si renda conto piuttosto che egli non è stato capace di scoprirvi se non una sola cosa fra molte altre. Quindi la parola di Dio Sì, bisogna, è come una sorgente nella quale ci si può assetare per quello che basta quella volta e alla quale poi in altre occasioni si può chiaramente tornare. Mi piaceva anche l'altro passaggio. Non rattristarti per il fatto che la ricchezza della parola ti superi, andava per me questo. E poi mi piaceva anche ciò che non hai potuto ricevere subito a causa della tua debolezza, ricevi in altri momenti con la tua perseveranza. Perché mi piacevano questi passaggi? Perché sono particolarmente adatti, secondo me, a chi si avvicina al testo del Cantico dei Cantici. Perché è un testo brevissimo, se lo dovete cercare in una Bibbia è più il tempo che impiegate a trovarlo che non quello a leggerlo, tanto breve, talmente breve che si fa veramente fatica a trovarlo. Se non lo sapete, non lo trovate, andate all'indice a cercarlo, perché è brevissimo, quindi sono veramente pochissime pagine. Però questo testo, fin dalle origini, fin da quando fu inserito nel canone ebraico, e adesso lo vedremo, ha avuto una storia interpretativa immensa, enorme. Cioè, se noi dovessimo star qui a fare uno studio del Cantico dei Cantici, beh, ce la caviamo, boh, non so, 2 o 3 anni, non so cosa ci vuole, perché ha avuto una storia interpretativa immensa e sono pochissime pagine, perché poi parleremo del suo inserimento nel canone ebraico un attimino, ma ha avuto una lunga storia interpretativa allegorica in chiave ebraica, lunghissima, che ha interpretato il testo come la storia del rapporto d'amore tra Dio e Israele. Ha avuto una fila di commentari presso i padri della Chiesa lunghissima, è stato utilizzato dai mistici, a cominciare da Santa Teresa d'Avila, poi altri, per descrivere loro il rapporto dell'anima con Dio, e anche quello è lunghissimo. Ha avuto una storia di interpretazione esegetica immensa, anche quello, soprattutto dal dopoguerra in avanti, fino ai giorni nostri, e quindi chi si appresta a conoscere, vuole studiare il Cantico dei Cantici, sappia che ha di fronte qualcosa di enorme, alla faccia che sono pochissime pagine. Già il testo è un testo poetico di eccellente livello, in un ebraico non facile. Okay, quindi già il punto di partenza non è semplice. Chi lo volesse studiare sappia che ha di fronte veramente un monumento di poche pagine che ha dato origine in 2000 anni a una storia interpretativa immensa. Okay. Per cui quello che farò io che cos'è? Come c'è scritto qua, ho preso alcune cose, perché tutto è impossibile. E dall'altro lato mi dispiaceva dirvi solo alcune cose, e allora mi sono attaccata a quell'altra frase, non attristarti se potrai bere solo qualcosa per volta, ma sappilo che con la tua perseveranza potrai attingere ancora alla parola. Passaggio successivo, ma breve, perché è un testo anche abbastanza difficile. Questo è un testo che viene citato, l'ha citato anche Andrea nell'invito, viene sempre citato, quindi ve l'ho messo qua, e soprattutto la parte in grassetto viene citata, il resto non viene citato perché è un po' più difficile, ed è un passaggio della Mishnah. La Mishnah è una delle opere fondamentali della tradizione ebraica ed è un'opera nella quale sono raccolte regole e indicazioni le più svariate, perché si va dal matrimonio alla celebrazione delle feste e via dicendo, è divisa in trattati che trattano tutti temi specifici, e in uno di questi trattati della Mishnah c'è un passaggio che riguarda proprio il Cantico dei Cantici ed è quello che ha inserito Andrea nell'invito. Perché? Perché sapete che il Cantico dei Cantici tratta in maniera in parte implicita, in parte esplicita, del rapporto tra un uomo e una donna, poi lo vedremo, facendo anche chiaramente riferimenti sessuali, ci sono, alcuni più, come si può dire, più palesi, altri meno, perché c'è un'influenza culturale e quindi bisogna conoscere i riferimenti culturali dell'epoca che riguardavano la relazione sessuale tra uomo e donna. Ma alcuni sono più chiari, si intuiscono, altri sono un po' più velati, ma semplicemente perché c'è un divario culturale. Allora, chiaramente, già i maestri dell'ebraismo, quando dovettero inserire i testi nel canone biblico e chiudere il canone, ci fu una discussione su il Cantico dei Cantici e anche sull'Ecclesiaste, cioè Coelet, altro testo interessantissimo, molto, molto diverso dal Cantico dei Cantici, ma brevissimo, ma anche quello interessantissimo, che ha avuto anche quello una storia interpretativa immensa, anche quello, sempre alla faccia delle poche pagine. E a un certo punto, in questa discussione tra questi maestri, tra questi rabbi del giudaismo, viene citato il parere di uno di loro, famosissimo, Rabbi Akiva, che è vissuto, questo lo so, tra il primo e il secondo secolo d.C. e che è morto martire, trucidato dai romani, e che è una delle figure rabbiniche più importanti di tutti i tempi. E si riporta il suo parere, perché è tipico del procedere di questi attesti dell'ebraismo è riportare pareri di questo, questo o quell'altro rabbi per aggiungere poi ad una interpretazione. E viene appunto riportato in questo passaggio il parere di questo rabbi Akiva. E lui dice: il mondo intero non ha tanto valore quanto il giorno in cui fui dato ad Israele il Cantico dei Cantici, perché tutti i scritti sacri sono santi, ma il Cantico dei Cantici è di massima santità, lui dice. Viene detto anche in altri passaggi che sporca le mani, viene usata questa espressione, che è un'espressione tecnica, perché quando i rabbini dicono che un testo sporca le mani, significa che è sacro. E quindi sapete che i testi biblici presso l'ebraismo non si possono toccare. Infatti vendono anche il souvenir, se andate in Israele, che è un bastoncino con una manina, con un dito puntatore, proprio è un souvenir praticamente, ma lo usavano per tenere segnare il filo della frase dove erano arrivati a leggere senza toccare il testo. Quindi dire che un testo sporca le mani significa che è sacro. E grazie al parere appunto di questo Rabbi Akiva, il Cantico dei Cantici viene inserito all'interno del canone ebraico e da lì poi nel canone della Chiesa cristiana. Allora, questo ve l'ho detto. Come è articolata la relazione di questa mattina? Allora, la relazione di questa mattina è articolata in tre parti. Non potevo fare tutto, perché è impossibile, e quindi occorre scegliere. E ho scelto tre brani, e questo è l'arrivo e l'invito, poi più avanti c'è un altro testo famoso che è la crisi, e poi c'è il testo finale conosciutissimo che è l'epilogo. Allora, cosa faremo? Allora, leggeremo innanzitutto il testo, perché bisogna... Per studiare e conoscere la Bibbia bisogna partire dai testi. Leggeremo la traduzione, poi vi dirò qualcosa sul testo, ma attenzione che io ho cercato di mettere in evidenza non solo le particolarità culturali del testo, perché questo testo chiaramente è, come tutta la Bibbia, è inserito in un contesto culturale, e quindi può essere un contesto culturale per noi chiaro, spesso non chiaro, perché sono tradizioni, usi e costumi e modi di pensare diversi dai nostri. Quindi attenzione a non inserire nella Bibbia, questo vale per ogni testo, modi di pensare che sono nostri, non retroproiettare pensieri, giudizi nostri sul testo biblico. Attenzione a non fare mai questa operazione che facciamo inconsciamente. Quindi, prima cosa, vi farò notare qualche influsso del mondo nel quale questo testo è nato, che chiaramente risente molto delle culture mesopotamiche e risente molto dei canti d'amore egiziani, perché canti d'amore erotico egiziani. Okay? ci sono anche in posti che voi non penserete mai, ad esempio Siracide 51, che è l'ultimo testo del libro del Siracide, lì per molti studiosi sotto è stato ripreso un testo erotico egiziano, ripreso e modificato chiaramente in un'altra chiave, ma ripreso e modificato, quindi attenzione che gli influssi sono maggiori di quello che noi possiamo pensare. Poi ho cercato di mettervi in luce chiaramente il contenuto del testo. Il testo fa anche un'altra operazione, da tanto è ricco, cioè fa riferimento e allusione ad altri passi biblici. Lo fa. Poi altra cosa che ho tentato di fare è, da un lato chiaramente, percorrere la linea dell'amore tra uomo e donna, questi due innamorati siamo in un contesto sponsale, cioè, attenzione, non sono due amanti clandestini, perché culturalmente anche era una cosa abbastanza molto negativa anche dal punto di vista culturale, questi sono due amanti che hanno come orizzonte il matrimonio, questo è chiaro, anche se però vedremo non c'è al centro l'istituto del matrimonio, l'istituto contratto del matrimonio non è, proprio il matrimonio è visto come contratto, come istituzione giuridica, non è al centro del testo, e questa è una grande novità che compie il testo, soprattutto confrontandosi con la cultura del tempo. Quindi, da una parte c'è la linea dell'amore tra uomo e donna, ma dall'altro lato, lo vedremo alla fine di ogni testo, di ogni piccola pericope, c'è il rapporto tra l'uomo e Dio, tra l'anima e Dio. Perché questo testo è un po' caratterizzato, è come se si muovesse su un filo, è come se avesse un filo teso e l'autore si muove su un filo. Si muove su un filo perché? Perché è capace di tenere insieme riferimenti culturali, cultura egizia, cultura mesopotamica, che lui chiaramente poi rivede, trasforma a seconda del suo orizzonte spirituale e culturale, è capace di fare riferimenti a passi dell'Antico Testamento, è capace di fare quello, è capace di tenere insieme amore umano, cioè l'amore tra uomo e donna, e anche riferimenti al rapporto tra l'uomo e Dio, tra l'anima e Dio, sempre in chiave sponsale. È capace di mettere insieme tantissime cose, tantissimi riferimenti, in pochissime pagine. Ed è per quello che poi il testo è esploso e ha dato vita ad una storia interpretativa lunghissima. Chiaramente in questa storia interpretativa c'è anche un condizionamento culturale. Era più facile interpretarlo per molti secoli come il rapporto d'amore tra Israele e Dio o tra l'anima e Dio che non in chiave come amore sessuale tra uomo e donna, perché chiaramente le culture dei secoli scorsi non lo permettevano, quindi era più facile interpretarlo in quella maniera che non proprio come è nato, come testo che si riferisce all'amore tra uomo e donna. Okay. Qualcuno che mi legge il testo, così risparmio un po' di voce. Vai Margherita, è tua. Ti ha dato una gomitata, è tua. Senti, è il mio diletto. Eccolo, viene, saltando per i monti, balzando per le colline. Il mio diletto somiglia a un capriolo o un piccolo dicervo. Ecco, si è fermato dietro il nostro muro, scruta dalle finestre, occhieggia dalle gratte. Il mio diletto parla e mi dice: alzati, amica mia, mia bella, e va. Perché, ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nel paese, è venuto il tempo del canto, la voce della tortora si è fatta udire nel nostro paese, il fico arrossa i suoi primaticci e le viti in fiore effondono profumo. Alzati, amica mia, mia bella, e va. Mia colomba, che stai negli anfratti della roccia, nei nascondigli dei dirupi. Fammi vedere il tuo volto, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è dolce e il tuo volto leggiadro. Il mio diletto è mio e io sono sua. Egli pascola fra i fiori di loto. Quando il giorno respira e le ombre si allungano, vieni, mio diletto, somiglia a un capriolo o un piccolo di cervo sui monti divisi. Ok, proviamo a vedere un pochino di che cosa ci parla il testo, in maniera molto semplice. Chiaramente l'inizio di questo testo descrive l'arrivo del diletto, sì, perché così è chiamato, Dodì, il mio diletto, alla casa della sua donna, dopo aver fatto una corsa balzando velocemente da una montagna all'altra per i monti della Palestina. Però noi, attenzione, perché la Bibbia non descrive i fenomeni psicologici come noi siamo abituati a descriverli. Ad esempio, non ci accorgiamo che l'arrivo del diletto è descritto dalla donna, in realtà. È lei che lo descrive, perché sente i rumori, come ognuno di noi riconosce i passi della persona amata, perché ha l'orecchio teso, è il passo inconfondibile di ognuno di noi, delle persone che amiamo. Quindi, che cosa succede? Noi percepiamo l'arrivo dell'uomo attraverso il cuore, la sensibilità dell'amata, della donna che è amata. Attraverso il suo punto di vista, la sua sensibilità, il suo cuore, noi percepiamo l'uomo che sta arrivando. È un uomo che non arriva all'improvviso, ma è un uomo che è atteso da questa donna. Che se no, la donna che sta lì proprio ad ascoltare continuamente, se sente i passi che arrivano. Una volta che il diletto giunge, sì, dove sta? Sta dietro un muro. Fateci caso, muri, porte, poi vedremo la famosa porta. Sì, muri, porte, ce ne sono parecchie. Ok? Una volta che il diletto giunge dietro il muro dove si trova la sua amata, che fa? È come se il movimento dai piedi passasse agli occhi. Comincia a curiosare dalle finestre, dalle inferriate, a guardare, a spiare attraverso le grate per vedere la sua amata. Sono questi occhi mobilissimi, molto inquieti, che guardano, scrutano attraverso le grate, attraverso le finestre. La donna dove sta? Dietro al muro. Sta dietro al muro perché è il simbolo della sua inaccessibilità. Si sente guardata, è turbata da questi occhi che la chiamano, ma senza parlare. È turbata da questi occhi che la scrutano, chiaramente, che la chiamano. Sono occhi innamorati, ma non parlano. Ella è chiusa dietro le grate, ma non solo fisicamente, anche metaforicamente, anche psicologicamente, è chiusa dietro questo muro, dietro queste grate. Però che cosa sente? Sente la voce dell'amore che è espressa dagli occhi dell'amato. La voce dell'amore espressa dagli occhi dell'amato, che non parla, bastano i suoi occhi, la invitano ad uscire. Sono gli occhi dell'amato, l'amore che si esprime attraverso gli occhi dell'amato, che la invitano a uscire da se stessa, a oltrepassare le grate, a oltrepassare il muro. Amica mia, lei viene chiamata, e come vedremo poi altri termini anche, è il termine usuale con cui viene chiamata la donna del cantico. Poi viene detta mia colomba, sorella mia, lo vedremo. Ma uno dei termini più usati è appunto amica mia, che corrisponde all'appellativo Dodì, diletto mio, con cui viene chiamato l'uomo. Quello adesso è quello che vi dicevo prima. Ciò che tiene uniti questi sposi è l'amore sponsale, questi futuri sposi, perché chiaramente questo non è non è un amore clandestino, assolutamente. Però Come vi dicevo, viene descritto l'amore sponsale e non l'istituzione del matrimonio, non il contratto del matrimonio, che all'epoca, lo vedremo alla fine, prevedeva un vero e proprio contratto con dei beni che venivano portati dalla donna e dei beni che venivano portati dall'uomo, e veniva dato un contratto vero e proprio, i famosi papiri di Elefantina, sono contratti matrimoniali praticamente, nel quale veniva stabilita la dote dell'uomo, la dote della donna, veniva stabilito quando sarebbero andati a vivere insieme, eccetera eccetera eccetera eccetera, ok? Questo anche a tutela della donna, perché nel mondo ebraico, se rimaneva vedova, la sua dote, che dal padre passava all'altro suo tutore, che era il marito, tornava a lei. Attenzione. Perché chiaramente lei passava dalla nel mondo ebraico passava dalla tutela del padre alla tutela del marito. E i beni che venivano chiaramente portati da lei in occasione del matrimonio, venivano gestiti dal marito, ma lei, se rimaneva vedova, aveva diritto a riprenderli, perché era l'unica sua tutela. Ci siamo? Però qui non c'è ombra di questo, cioè dell'istituzione del matrimonio, del contratto del matrimonio, non c'è ombra. Si parla di un amore sponsale, però. Come dicevo prima, mio diletto, amica mia, mia bella, mia colomba, c'è sempre questo aggettivo possessivo, pronome possessivo a seconda dei casi, sottolinea l'appartenersi reciproco dei due che si amano. Non è il possesso, cioè non è che l'uno o l'altro sono possesso, cioè non è che l'amata è possesso dell'amato e l'amato è possesso dell'amata, no, non è così. È più che altro un esprimere la mutua appartenenza. Infatti c'è quel famoso versetto: il mio diletto è mio e io sono sua. Cioè questi aggettivi o pronomi possessivi esprimono proprio la mutua appartenenza, non la proprietà privata. Interessante questo è molto interessante. Alzati amica mia, mia bella, e va. Quel va lì in ebraico è letteralmente vattene, cioè vai, proprio. Il testo mette a fuoco che cosa? Il distacco, il punto di partenza, vattene. Cioè non vai allegramente, no, non è quello. Prendi e vai. Perché? Probabilmente. Perché vuole sottolineare che cosa? La forza dell'amore che consente che cosa? L'oltrepassare il muro, l'oltrepassare la grata. Ma uno dei temi del cantico è che il distacco è anche un distacco dal mondo di appartenenza, dalla famiglia naturale, dai condizionamenti della società e via dicendo. Perché questo testo, se voi provate a mettervi nei panni di chi l'ha scritto, è dirompente per l'epoca in cui è stato scritto. È stato scritto probabilmente nel III secolo avanti Cristo, in epoca ellenistica, che chiaramente era già un'epoca con una certa apertura mentale, ma non fino a questo livello. Cioè è un testo che canta l'amore sponsale tra i due, indipendente, o meglio, che dovrebbe essere vissuto all'interno del matrimonio, che non dovrebbe essere ridotto a un semplice contratto, ma è anche un testo che canta la forza dell'amore, lo vedremo, che si oppone ai condizionamenti della società. Questo è un tema che ritorna continuamente, la forza dell'amore che ha bisogno della società, poi lo vedremo, ma che si oppone anche ai condizionamenti della società, che va oltre i condizionamenti della società. Solo che questa espressione, vattene, si trova anche in un altro posto, e non è un posto a caso, perché si trova in Genesi 12.1 e 22.2, che sono i testi che si riferiscono ad Abramo. Entrambe le volte, in questi due testi, 12.1 e 22.1, Dio si rivolge ad Abramo e gli chiede di partire, vai, e di lasciare la sua terra, la sua famiglia, per andare in un luogo che Dio gli indicherà. Fatalità, quel vattene è il vattene che Dio dice ad Abramo. E questo non è un caso. Chiaramente la vedete che l'attore del testo è andato a riprendere un riferimento per l'epoca chiarissimo, che era il vattene di Dio ad Abramo. Nel cantico, a chiedere di andare, di andarsene, vedete anche il doppio livello, è il diletto, ma è anche la voce di Dio che parla attraverso il diletto. L'amore di Dio, lo vedremo, si esprime attraverso l'amore umano e noi comprendiamo il volto di Dio attraverso l'amore umano. È duplice, perché è vero, noi comprendiamo l'amore di Dio attraverso l'amore umano, ma l'amore umano serve anche a farci vedere il volto vero di Dio. E quindi nella voce del diletto, vattene, c'è anche la voce di Dio che chiede a questa donna di andarsene. E poi lo vedremo anche quando si dovrà alzare e andarsene, che cosa succede. Qual è il motivo del distacco? L'abbiamo letto, il primo motivo del distacco, basta andare a prendere il testo, perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata, i fiori sono apparsi nel paese, è venuto il tempo del canto, la voce della tortora si è fatta udire, il fico rosso e i suoi primaticci, le viti in fiore fondono profumo, è giunta la primavera. È giunta la primavera, potete interpretarla come credete dal punto di vista metaforico, ed è quella che implica che la donna finalmente decida di alzarsi. Mia colomba, eccolo qua, dei tanti riferimenti al mondo religioso e culturale nel quale era inserito l'autore del cantico, questo è uno dei tanti, la colomba. Perché la colomba era sacra alla dea dell'amore. Quindi dicendo colomba mia, che era un animale sacro alla dea dell'amore, esprime il diletto, esprime che cosa? La sensazione di trovarsi di fronte a una manifestazione del divino. Perché la colomba era sacra alla dea dell'amore. E quindi dicendo mia colomba, lui afferma di trovarsi di fronte a una manifestazione del divino, ad una apparizione divina. Chiaramente non alla divinità pagana, ma a Dio. Lui manifesta, lui attraverso questa espressione, di trovarsi di fronte alla manifestazione di Dio. Vedete che noi possiamo pensare, oh sì, la colomba che è bella, un bel animale, non lo so, la donna è paragonata ad una colomba per la sua leggiadria. No, non è quello, cioè non è solo quello. C'è un riferimento culturale preciso. Perché la colomba era sacra ad una divinità pagana dell'amore, quindi vuol dire che l'uomo si trova di fronte ad una manifestazione di Dio. Grazie. Andrea. Aspetta un secondo, un pasticcio. Oh, mamma mia. Oh, perfetto. Oh. Sono. Boh. Nel cantico, a chiedere di andare è il diletto, vi dicevo, ma è sempre la voce di Dio che parla. Ed è Dio stesso, dall'altro lato, che si manifesta nella donna. Infatti, eccolo qua, fammi vedere il tuo volto. L'amato dice all'amata, fammi vedere il tuo volto. Ma anche qua troviamo gli stessi termini che descrivono l'apparire di Dio a Mosè e agli israeliti su Sinai. Sta citando Esodo. Certo che se noi lo leggiamo, chiaramente non abbiamo una conoscenza biblica come avevano all'epoca, per la quale erano normali questi riferimenti, come per noi sono normali altri riferimenti culturali, okay, come la cruna del lago a noi viene immediatamente in mente il Nuovo Testamento, a loro l'espressione fammi vedere il tuo volto faceva venire in mente subito Dio che appare a Mosè e agli israeliti su Sinai. Trovare l'amore quindi significa intravedere che cosa? Un barlume della trascendenza. Nell'amore tra uomo e donna si vede qualcosa della trascendenza divina. Ancora, il mio diletto è mio e io sono sua, la formula dell'appartenenza. anche perché il Cantico dei Cantici è intessuto da continui ritornelli, continui rimandi, se lo leggete ve ne accorgete, è pieno di rimandi, è pieno di ritornelli, cosa che rende anche complesso trovare una struttura di questo cantico. Uno dei ritornelli è proprio il ritornello dell'appartenenza. Il mio diletto è mio e io sono sua. Però anche qui c'è un questo ritornello ha un eco nell'Antico Testamento. Io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Anche qui siamo nei testi dell'Antico Testamento. Ritorna ancora questo riferimento all'Antico Testamento. Vedete che, come vi dicevo prima, si muove su un filo. Tiene insieme amore umano, l'amore è anche, ma non amore umano platonico, cioè non è quello, amore umano anche sessuale, ampiamente, perché lo vedremo, e tiene insieme l'amore per Dio dell'uomo, ma soprattutto di Dio per l'uomo. Per chi ha voglia di leggere qualcosa di un po' facile, Teresa Forcadesh, famosa perché è una suora spagnola, credo, ha un curriculum enorme, è stata anche al Salone del Libro di Torino, ha posizioni molto avanzate, però ha scritto anche un testo sul Cantico dei Cantici, leggibile, si legge, e ho tratto qualche spunto da questo suo testo, perché mi sembravano molto, molto adatti, molto adatti. Ma il testo che si legge, Teresa Forcadesh, Cantico dei Cantici, si legge, niente di impossibile. Lei dice, si potrebbe leggere in filigrana in questo testo un Dio che salta per i monti, che balza per le colline, perché è quell'operazione che bisogna fare, che ci cerca e ci desidera. Non è solo l'uomo che salta per i monti e balza per le colline, ma è anche Dio che ci cerca e ci desidera, che palpita e si entusiasma appena nel fervore di raggiungere la sua amata, senza però mai imporre la propria volontà. Il nostro Dio è un Dio amante che corre sempre con trasporto all'incontro, animato da perseveranza, da entusiasmo. Bisogna vedere il volto di Dio nel volto di questo diletto. Però al rifiuto dell'amato di aprire la porta, adesso al tema della porta ci arriviamo, l'amato del cantico rispetta il suo limite, rispetta la libertà della donna, rispetta i tempi della donna e resta in attesa. Ma anche Dio agisce così, rispetta i tempi della persona, rispetta i suoi spazi, rispetta il suo percorso. Bellissimo questo testo, secondo me, della Forcadesh. Dio esorta anche noi. Vieni, svegliati, vai, alzati su e vieni, sollevati dall'oppressione. Non lasciarti scoraggiare. Esci dalle prigioni in cui sei rinchiuso e vieni. Ben dritto sulle tue gambe, vieni. Non arrivare a me carponi, in ginocchio, strisciando a terra. È Dio che parla. Recupera la tua dignità, riprendi in mano la tua vita, ritrova la forza di agire, abbi il coraggio dei tuoi desideri, poi vedremo il tema del desiderio, e vieni. Fidati di me, amica mia, sembra dire l'amato. Coraggio, mia colomba, abbi fiducia, spicca il volo e vieni. Ma qui dobbiamo sentire anche la voce di Dio. Forse è solo in virtù di questo vieni, in ragione di questa chiamata, che noi esseri umani ci alziamo. In mancanza di un appuntamento amoroso, di una promessa di un incontro, succede che ci si sveglia al mattino e si richiudono gli occhi, non trovando ragioni sufficienti per alzarsi dal letto. Qual è la ragione di alzarsi dal letto? È diverso quando sappiamo di essere desiderati e attesi. Fine della prima parte. Ho bisogno ancora della lettrice. Pausa, micro pausa. Io dormivo, ma il mio cuore era desto. Senti, Il mio diletto bussa. Aprimi, sorella mia, amica mia, mia colomba, mia perfetta, perché il mio capo è intriso di rugiada, i miei riccioli di stille notturne. Mi sono tolta la tunica, come posso di nuovo indossarla? Mi sono lavati i piedi, come posso ancora sporcarli? Il mio diletto tese la mano dall'apertura, trasalivano per lui le mie viscere. Io mi alzai per aprire il mio diletto. Le mie mani stillavano mirra, le mie dita liquida mirra sull'impugnatura del chiavistello. Apersi io al mio diletto, ma il mio diletto era andato, scomparso. La mia anima usciva al suo dileguarsi. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. L'ho chiamato, ma non mi ha risposto. Mi hanno trovata le guardie che fanno la ronda della città. Mi hanno percossa, mi hanno ferita, mi hanno tolto il mantello, le guardie delle mura. Vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, se trovate il mio diletto, che cosa gli racconterete? Che io sono malata d'amore. Testo famosissimo, uno dei più belli forse. Allora, è composto da due scene. La prima, presso la porta chiusa, termine tecnico, si chiama paraclausitiron. E non è una novità, perché se voi andate a leggere le elegie di Tibullo, di scene presso la porta dell'amata, ce n'è più di una. Quindi è un classico tema della letteratura antica. Canto d'amore presso la porta chiusa. Si chiama paraclausitiron. Niente, riprende proprio un tema tipico anche della letteratura antica. Si trova in Tibullo, ma in altri autori si trova. La seconda scena è invece caratterizzata dalla ricerca amorosa della donna stavolta. Stavolta è la donna che cerca, attenzione. Mentre prima, nella prima scena, c'era la donna in casa e l'uomo che balza e salta per i monti per arrivare da lei, adesso la situazione si è invertita. L'uomo scompare, lo vedremo, ed è lei che cerca. Si è girata la situazione, si è invertita. Andiamo alla prima scena. Nella prima scena è presentata la ricerca del diletto. Cosa fa? Giunge di notte presso la porta dell'amata e le chiede di aprire. Lui si trova fuori di casa, esposto alla rugiada notturna, questi riccioli bagnati dalla rugiada. Come vi dicevo, nella seconda scena i ruoli si invertono e fuori di notte, esposta ai pericoli, è lei, non è lui nella seconda scena, si è invertito il gioco. Infatti lei incontrerà le guardie. Chiaramente le situazioni descritte sono inverosimili, cioè non viene descritto qualcosa di reale, una donna di notte che va in cerca di un uomo nel mondo antico, già al giorno d'oggi ti guardano male, figurarsi all'epoca, è inverosimile la scena che è descritta, assolutamente sono scene inverosimili, ci siamo. Cantico di Cantici è poesia, non è una cronaca, chiaramente. Esso presenta delle situazioni liriche, poetiche, al limite del reale, per illuminare diversi aspetti dell'amore. Quindi non prendete queste scene come qualcosa di realistico, perché è impossibile. Essere sveglio. Se voi andate all'inizio, io dormivo, ma il mio cuore era desto. Ho scritto di tutto di più sto versetto. Essere sveglio. Che significa? Lei lo sente arrivare. Sta dormendo, ma lo sente arrivare. Quindi vuol dire che il cuore è sveglio. Si riferisce probabilmente alla disponibilità all'amore. Prima c'era era dietro il muro, dietro le grate. Adesso è dietro una porta, ma il cuore è sveglio. Viene in mente Matteo 25:13. Vegliate dunque perché non sapete né il giorno né l'ora. viene in mente immediatamente quello. Nel diletto che bussa è l'amore che chiama, che batte alla porta, il riferimento è immediato, perché qualcuno che conosce un attimo le scritture immediatamente gli viene in mente, Apocalisse 3:20, ecco sto alla porta e busso, è Gesù che sta alla porta e bussa, Gesù Cristo. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. La lettera è la Laodicesi. È proprio chiarissimo il riferimento. Chiaramente l'autore dell'Apocalisse lo sapeva bene cosa c'era scritto nel cantico e va a riprenderlo. Ancora, sorella mia, amica mia, mia colomba, mia perfetta, non esprimono un legame di possesso, esprimono invece il solito ritornello dell'appartenenza. Il mio diletto è mio e io sono sua. Però andiamo un po' a guardarci un po' dentro. Il termine sorella è l'appellativo usuale nei canti d'amore egiziani e mesopotamici per indicare la fidanzata. A un certo punto lei dice, tu fossi mio fratello, figlio della stessa madre, avremmo meno problemi. A un certo punto dice anche quello, a un certo punto. La risposta dell'amata però è un po' strana. Sembra pretestuosa perché dice al diletto che bussa che si è tolta la tunica, si è lavata i piedi, per cui non può alzarsi. Che succede? Pigrizia? Senso del pudore, che succede? Cioè, una innamorata che sente il suo amato bussare alla porta non dovrebbe farsi tutti questi problemi, dovrebbe aprirla bella che è finita. Vi faccio presente che sono uno dalla parte della porta e l'altro dall'altra, perché poi c'è un altro elemento. Sembra che la donna voglia far attendere l'innamorato, gli voglia far pesare qualcosa. Se qualche suo comportamento che lei non ha gradito, c'è qualcosa che non funziona, la donna indugia, tira fuori pretesti, scuse per non aprire e non si capisce perché. Viene in mente anche un altro passo, Luca 11:5-7. Vi ricordate l'amico importuno? Dice, c'è un amico al quale è giunto un amico in piena notte e non ha nulla da dargli. Allora il primo amico che ha ricevuto quest'ospite che fa? Va da un terzo amico. E quello gli risponde, se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli, amico prestami 3 pani perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da dargli. E se quello dall'interno gli risponde, non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Allora, il terzo amico che va interpellato dal primo che ha ricevuto l'ospite, che cosa gli risponde? Non mi importunare, non posso aprire la porta, ancora sta storia, sta porta, e io e i miei bambini siamo a letto. Non posso alzarmi per darteli. Qua si capisce perché era una casa minuscola nel quale dormivano praticamente tutti per terra e quello era lo spazio della casa, quindi se uno si alzava svegliava tutti gli altri, cioè non è che avessero delle case come le nostre, uno bussa alla porta e uno dorme in una stanza e uno dorme nell'altra, no, non era così, era uno spazio angusto e tutti dormivano per terra, quindi se si alzava uno si svegliavano tutti, chiaramente quello capitava. La donna stava attendendo l'amato, il mio cuore era desto ed era anche emotivamente coinvolta, trasalivano per lui le mie viscere, le mie mani stillavano mirra, le mie dita liquida mirra, ma sta di fatto che qualcosa va storto e impedisce l'incontro dei due, è un disincontro. Perché, continua a sottolineare questo, perché... Ok, questa scena qua, il mio diletto tese la mano all'apertura, trasalivano le mie viscere, io mi alzai per aprire il mio diletto, le mie mani stillavano mirra, le mie dita liquida mirra, sull'impiegnatura del chiaristello. Chiaramente ci hanno letto un riferimento sessuale, è chiaro come sole, cioè, però qualcun altro ha detto no, non è possibile che sia la descrizione di una scena sessuale perché sono uno dalla parte della porta e uno dall'altra. C'è questo piccolo problema. Come fa essa descrizione di un incontro sessuale se sono uno da una parte e uno dall'altra della porta? E soprattutto se poi lei non si alza e lui va via. Quindi attenzione, c'è questo trovate diversa interpretazione, perché è un po' problematico. Ci siamo? Trasalivano per lui le mie viscere, ma quando si parla di viscere nell'Antico Testamento, lì c'è il famoso Rahamim e lì sono le viscere di Dio per il suo popolo. Raham letteralmente è l'utero materno, ad essere precisi. Il riferimento è chiaro. Quindi sono le viscere di Dio per il suo popolo o quelle del profeta di fronte a una sciagura. E un significato sessuale in questi testi non c'è. E quindi anche quello fa un po' fatica a interpretare in chiave sessuale questa scena. Non solo la logica, perché uno da una parte e uno dall'altra, ma anche perché il riferimento alle viscere nell'Antico Testamento fa riferimento alle viscere di Dio, alle viscere del profeta, e non sono mai usati questi termini in chiave sessuale, mai. Le viscere, chiaramente, sia quelle della donna che quelle di Dio, che, o quelle del profeta, che cosa esprimono? Una profonda emozione d'amore, esprimono quello. Vabbè, sta donna finalmente si alza, vinti gli indugi, si appresta finalmente ad aprire la porta, solo che la delusione è cocente, la mia anima usciva il suo dileguarsi. È la descrizione della morte, si è sentita morire, ha aperto la porta e lui non c'era, è la descrizione della morte questa, la mia anima usciva il suo dileguarsi. I due innamorati desideravano ardentemente incontrarsi, ma ciò non avviene. Per questo motivo questo testo viene definito anche la crisi di questo rapporto d'amore. Perché i due non si incontrano, lo desideravano tutti e due, ma c'è qualcosa che non ha funzionato. C'è una sfasatura dei tempi, è un disincontro. Quando lui era pronto, lei tira fuori delle scuse. Quando lei era pronta, lui si è staccato di aspettare ed è sparito. Cosa fa questa donna? Prego, prego. Questa donna non chiude la porta e torna a letto, ma di fronte alla delusione non si lascia abbattere. Reagisce. Ma come vi dicevo, i ruoli si invertono. Adesso è lei a cercare lui. All'inizio del testo era l'amato a trovarsi fuori della casa, esposto ai pericoli della notte, la famosa rugiada sui suoi capelli, la notte in quelle... Già la notte del giorno d'oggi non è proprio il momento della giornata più tranquillo, figurarsi a quell'epoca. È l'amata a trovarsi fuori dalla sua casa, esposta ai pericoli notturni. Non trova l'amato, ma sono le guardie della città a trovare lei, le guardie che giravano nella città. La donna viene percossa, viene ferita, viene spogliata dalle guardie. Probabilmente questa è la descrizione della punizione che veniva data alle prostitute. Viene scambiata per una prostituta, probabilmente. E quindi dovrebbe essere la descrizione della pena che veniva inflitta alle prostitute. Dovrebbe essere quella. Ma hanno scritto di tutto e di più, perché la scena è inverosimile, una donna che si mette a cercare l'amato di notte, il suo significato è chiaramente simbolico, le guardie chi sono però? Hanno scritto di tutto, sono la forza repressiva della legge per alcuni, la forza repressiva del potere, della società che vuole irrigidire, irrigimentare quest'amore. Per altri è superio freudiano addirittura, sì, ma ci sta, che possa essere anche superio freudiano, ci sta. È qualcosa che vuole limitare pesantemente l'amore. È qualcosa che si oppone all'amore, perché? Perché lo vedremo, l'amore viene dal deserto e quindi ha in sé qualcosa di anarchico. È un tema costante, amore e società. Sono in rapporto, l'uno deve qualcosa all'altro, però l'amore ha in sé qualcosa di anarchico. Si sottrae a schemi prestabiliti. Alla crisi del rapporto tra i due innamorati, legata chiaramente a qualcosa che non conosciamo, alle circostanze della vita o a qualcosa che non conosciamo, che cosa corrisponde? Corrisponde anche la crisi del rapporto tra l'amore e la società. Perché la società non riesce a capire le ragioni dell'amore. Quindi non sono in crisi solo i due, perché non si sono incontrati, chissà per quale motivo, ma è in crisi anche il rapporto tra la forza dell'amore e la società, perché la società non capisce le ragioni dell'amore. Nell'amore c'è una saggezza che agli occhi della società sembra pazzia. E quando si parla di pazzia all'interno dell'Antico Testamento, immediatamente un testo viene in mente, che è 1 Corinzi 1:18-30. È il famoso testo di San Paolo dove descrive la stoltezza e la follia della croce. È quello che viene in mente. Ma anche solo chi ama è disposto a perdere la propria vita per la persona amata. Ed è il testo di Giovanni 15. È Gesù che offre la sua vita per la persona amata. Proviamo a vedere, a passare dal livello umano al livello del rapporto con Dio. Il tema della ricerca amorosa chiaramente è un classico del tema della letteratura, chiaro. Ma in fin dei conti l'essere umano è un essere in ricerca. E in fondo ad ogni ricerca, anche se non ce ne rendiamo conto, c'è la ricerca di Dio. Magari ricerche strane, come si può dire, con sentieri tortuosi, ma l'uomo è un uomo in ricerca. Il fondo di ogni ricerca c'è la ricerca di Dio e la ricerca dell'amore, la ricerca dell'essere accettato, in fin dei conti. La crisi del rapporto tra l'amato e l'amata può essere facilmente riferito anche alla relazione tra Dio e il suo popolo. Il popolo che tradisce Dio. Okay? Altro testo famosissimo è Osea 8, è Osea che è stato scritto nell'VIII secolo, questo autore si inventa questo testo nel quale il profeta Osea è obbligato da Dio a sposare una prostituta. Per quale motivo? Perché deve impersonare, deve vivere lui stesso ciò che vive Dio, che è continuamente tradito dal suo popolo. Come il profeta è continuamente tradito dalla sua donna, perché è una prostituta, così anche Dio è continuamente tradito dal suo popolo. Qui il riferimento è più che altro il rapporto non tra Israele e il suo popolo, ma tra Dio e la singola persona. Perché infatti questo testo è stato spesso utilizzato per descrivere la notte oscura. La notte oscura è un fenomeno che avviene nelle vite dei santi quando Dio scompare. Dalle persone che hanno dedicato la loro vita a Dio, no? Veramente hanno dedicato tutta intera la loro vita a Dio, a un certo punto Dio scompare, come se non ci fosse. Ma non per un giorno, per anni, eh? Si parla, e questa è la famosa notte oscura. Ma anche Gesù l'ha attraversata. Nella strada del Getsemani, sulla croce, ha attraversato la crisi del rapporto col Padre. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questa frase, che è la citazione di un salmo, segna una frattura nella Trinità. Perché per un attimo, si crea proprio la distanza tra il Figlio e il Padre. C'è proprio una frattura nella Trinità. Testo carino di Sant'Agostino, vi parlavo del desiderio, perché è uno dei temi, chiaramente, del cantico, il desiderio. Ma il desiderio anima anche la vita, non solo il desiderio sessuale, qualsiasi desiderio. Se non ci fosse desiderio nella vita, mamma mia, saremmo tutti morti e piallati. Scrive Sant'Agostino: Dio differisce, non esclude, e nel rinviare che fa, dilata con il desiderio la capacità dell'anima. L'attesa intensifica il desiderio, non solo il desiderio amoroso, ma anche il desiderio di Dio. E il desiderio dilata l'anima, la apre, la amplia, in maniera tale che possa ricevere l'altro da sé. L'anima ha bisogno di allargarsi per ricevere l'altro da sé. E questo può avvenire soltanto attraverso un'anima che è di desiderio e di attesa. Desiderare ciò che non si ha implica sempre un rischio. Desiderare, se si vuole passare dal desiderio all'azione, c'è un rischio da correre, un esforzo alle delusioni. L'avete visto con la donna, ha dovuto andare in cerca dell'amato di notte. Una tensione che non può raggiungere il proprio oggetto, che può anche rimanere insoddisfatta. Però, come vi dicevo, l'attesa amplia il desiderio, implica un'apertura, un allargamento dei confini della propria anima, per accogliere il diverso, accogliere ciò che la vita ha in serbo per ognuno di noi, accogliere ciò che Dio ha in serbo per noi e Dio stesso. La nostra anima non è pronta ad accogliere Dio così com'è, saremmo tutti fulminati, cioè ha bisogno di, chiaramente, di aprirsi e dilatarsi, e Dio è disposto a questo gioco. Qui mi fermo, 10:45. Andrea mi fa un riferimento con un cantino, ne hai uno in più? Ne hai uno in più? No, ma anche se è doppio. Oppure lo puoi fare dopo, come vuoi. Come no, quando volete. Come volete voi. Poi, volete un canto? Vogliono un canto. Desiderano un canto. A vostra scelta. A vostra scelta. I vestiti di luce. Sì. Grazie. I vestiti di luce. Quando vuoi. Se ne va la nebbia portata via dal vento, così come accade ad un bambino che apre gli occhi al mondo. Ogni giorno, un giorno vivo di un colore nuovo che è luce, che è luce in me. Che al mattino illumina la mia anima col suo amore, che Dio che mi è vicino. Ma io un giorno vivo un colore nuovo che è luce, è luce. Vestiti di luce, porta il sole attorno a te. L'amore, che l'amore che cerca a te, i vestiti di pace, la vita abbraccerà, e la porta che non hai trovato mai, dalla sua luce ti arriverà. Senza far rumore, mi svela i misteri che aprono il cuore. Un sorriso può portare la luce ed aprire le porte del paradiso. Può farti ogni giorno un giorno diverso di un colore nuovo che è luce. grazie. Grazie. Facciamo un attimo di pausa. Costei che sale dal deserto appoggiata al suo diletto. Sotto il melo ti ho svegliato, là gemette tua madre, là gemette e ti ha dato la luce. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, implacabile come gli inferi gelosia. I suoi dardi sono dardi di fuoco, una fiamma di Yah. Le grandi acque non bastano a spegnere l'amore, né i fiumi lo travolgono. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne otterrebbe che disprezzo. Siamo arrivati all'ultimo testo che leggiamo questa mattina. Vediamo che cosa possiamo dire su quest'ultimo testo. Innanzitutto l'inizio. Chi è costei che sale dal deserto? In un altro capitolo è bellissimo, perché si vede tutto il corteo che sale dal deserto. Viene scritto il corteo che sale dal deserto con la sposa attorniata dai cammelli, da tutto il suo seguito, dicendo, bellissima la scena proprio della sposa che sale dal deserto con tutto il suo corteo, splendida proprio. Qui viene ripreso questo tema, chi è costei che sale dal deserto appoggiata al suo diletto? E come ve lo nominavo prima, c'è il tema del deserto. L'amore non viene dalla città, ma dal deserto. Perché? Perché il deserto rappresenta le forze primitive della natura. Il deserto è il luogo dove nasce l'amore, ma certo, perché rappresenta le forze primitive della natura, rappresenta ciò che non è controllabile, regolato dalla società, l'amore, certo. A qualcosa che nasce dalle nostre, dalle profondità del nostro essere, sicuramente ha a che fare qualcosa che è insito proprio nella nostra natura umana e che spesso non ha molto a che fare con la logica, sicuramente. L'amore nasce proprio dal nostro io più profondo, nasce dalla nostra natura umana, è una passione, ha qualcosa di sicuramente poco razionale. Ma il deserto è anche il simbolo della morte, cioè questa ambivalenza del deserto, indica ciò che ha a che fare con la natura, con le forze primitive della natura in senso positivo, ma è anche il simbolo della morte e del pericolo. E proprio perché è simbolo della morte e del pericolo, vedete, chi è costei che sale dal deserto appoggiata al suo diletto e dove va? Va verso la città, chiaramente, che è Gerusalemme. Va verso la città che è chiaramente Gerusalemme. Quindi i due amanti lasciano il deserto e procedono verso la città. Perché è vero, la città è ciò che la società è ciò che vuole incasellare, inquadrare l'amore, ma è anche dall'altro lato ciò che indirizza l'amore, perché l'amore non può essere lasciato unicamente nel deserto, in balia delle forze della natura, ha bisogno anche della società, come la società ha bisogno dell'amore. L'amore ha bisogno della società per essere indirizzato, guidato, ma la società ha anche bisogno della forza vitale dell'amore che nasce dal deserto. C'è questo rapporto. Ah, il melo. Questo è proprio qualcosa che magari chi, se non lo si sa, non si capisce. Sotto il melo, poi c'è quel Dio svegliato, che poi ci torneremo, sotto il melo. Il melo è sacro alla dea dell'amore in Mesopotamia e in Grecia. Attenzione con le piante, con gli uccelli, con i riferimenti botanici, possono essere riferimenti botanici, ornitologici, o può essere altro, in questo caso è altro. Il melo è il simbolo della dea dell'amore in Mesopotamia e in Grecia, ma parlare di piante nella Bibbia viene sempre in mente una pianta, cioè quella del paradiso terrestre, Genesi 2-3, a questo riferimento è immediato. Là è la donna, Eva, non si parla di melo, cioè non c'è il melo nella narrazione di Genesi 2-3, si parla di una pianta, fine, ma le piante sono due, l'albero del bene e del male, e della conoscenza del bene e del male e l'albero della vita, e Eva coglie il frutto dall'albero della conoscenza. L'albero della vita invece è protetto dagli angeli, quindi Adamo ed Eva non riescono ad avere accesso a quello. La donna Eva porge il frutto dell'albero proibito all'uomo, contravvenendo al comando di Dio. E in quel momento i loro occhi si aprirono e si accorsero di essere nudi, perché chiaramente prima erano nudi. Si accorgono di essere nudi perché hanno contravvenuto al comando divino. Sì, nel Cantico dei Cantici, chiaramente si parla dell'amore umano, si parla dell'amore sessuale, si parla anche di nudità, ma non c'è ombra di peccato. Attenzione. Si parla dell'amore umano, si parla degli ostacoli dell'amore, si parla, c'è un vago riferimento, lo trovate alle famose volpi piccoline, c'è un riferimento alle volpi piccoline, che insediano l'amore. Attenzione. Quelli sono i pericoli dell'amore. Ma non c'è ombra di peccato. Questo testo ci parla dell'amore umano, dell'amore sessuale e non c'è ombra di peccato. Anche la sua straordinarietà. Ricordatevi, siamo sempre al terzo secolo avanti Cristo, epoca ellenistica, ma siamo sempre centinaia di anni fa. Il cantico cosa fa? E questo è voluto? Corregge e reindirizza il racconto della Genesi. Il Cantico dei Cantici è a metà, tra l'altro, della Bibbia, perché se fate i conti più o meno se ne sta a metà. Cosa fa? Corregge, reindirizza la Genesi. Perché se nella Genesi, che cosa succede? Eva contraddice Dio, contravviene al comando di Dio, coglie il frutto e si accorge di essere, che loro erano nudi, qui che cosa succede? Qui siamo in fin dei conti in un altro paradiso. Perché e chiaramente viene descritto ampiamente, ampiamente un giardino, ci sono tantissime piante, tantissimi fiori descritti nel Cantico. Siamo in un altro giardino, ma è un giardino nel quale l'uomo e la donna vivono il loro amore e sono nudi, ed è come se ritornassero allo stato antecedente al peccato. È quello che vuole mostrare l'autore, vuole farti vedere come l'uomo e la donna possono vivere il loro amore, però, come si può dire, nella sua bellezza. Certo che l'ombra del peccato umano c'è, perché è insito nella vita dell'uomo, cioè l'errore è insito nella vita dell'uomo, ma c'è che cosa? C'è un far vedere ciò che l'amore è positivamente. La nudità è vista come qualcosa di positivo, non è più frutto della coscienza, la nudità non è più vista come una vergogna. La nudità è vista come una vergogna dopo il rifiuto di Dio, perché erano nudi sia prima di cogliere il frutto della pianta, sia dopo. Ma il problema qual è? Non è il fatto di essere nudi, è che dopo aver colto il frutto si accorgono di essere nudi e la nudità viene vista come una vergogna. Chiaramente poi con tutte le implicanze simboliche di questo passaggio. Ci siamo. Quindi il Cantico dei Cantici reindirizza il racconto della Genesi. Mi sono spiegata? Come dico ai miei studenti? Sana che cosa il cantico? Le ferite della reciprocità amorosa. Sana le ferite del rapporto tra uomo e donna. Ma fa anche un'altra cosa, perché nel cantico uomo e donna non sono da soli. È vero, ce lo vedremo, c'è un unico riferimento a Dio, ma non sono da soli. Ce n'è uno solo di riferimenti a Dio, ma non sono da soli. Quindi viene sanata la reciprocità amorosa tra uomo e donna, ma viene sanato anche il rapporto con Dio. Perché cosa succede nella Genesi? La donna cosa fa? Coglie il frutto e contravviene al comando di Dio, perché qual è il pensiero? Dio mi sta nascondendo qualcosa, mi sta togliendo qualcosa, la conoscenza del bene e del male, quindi mi sta togliendo a me qualcosa. E io posso... senza Dio vivere meglio, è quello il ragionamento, uno dei tanti ragionamenti che c'è dietro. Prendo il frutto, contravvengo a Dio, perché così posso, senza di Lui, facendo a meno di Lui, avere una vita migliore. E questa è la grande illusione, perché poi si accorgono di essere nudi. Un altro incontro, ma il racconto del paradiso terrestre è tutto intessuto di questi rimandi. La donna e l'uomo vogliono vivere senza Dio, convinti di vivere meglio. E proprio per quello colgono il frutto. Pensano di avere un'altra possibilità. Se conosco il bene e il male, se scelgo io le regole del gioco, cioè decido cosa è bene, cosa è male, decido le regole del gioco e non, chiaramente, senza fidare di Dio, allora faccio meglio. Questa è la grande illusione in cui l'uomo cade sempre. Dio mi ruba qualcosa. Dio mi tende una trappola. Nel cantico questo non avviene. Perché che cosa succede? Dio viene invece introdotto nell'intimità dell'uomo. L'uomo non tiene più qualcosa per sé che non vuole condividere con Dio, ma condivide tutto con Dio, addirittura l'intimità sessuale. Tutto viene condiviso. Dio, l'uomo e Dio possono condividere tutto. L'uomo e la donna si aprono a Dio, condividono con Dio tutto. Non c'è più qualcosa che tengono per sé per paura di Dio, qualche spazio che trattengono, nel quale Dio non può entrare, perché dicono, no, qui Dio non entra. È il muro che erigono, la porta che chiudono, perché non si fidano di Dio. Questo non avviene qui. Chiaro? Mm-hmm. Oh, spera. Ti ho svegliato. Allora, in ebraico è il termine orartika. Or significa luce. Per cui si può tradurre ti ho illuminato. Perché vi dicevo un po' un problema? Sotto il melo ti ho svegliato. Lì c'è scritto lei, ma potrebbe essere anche lui. Qua mi riferisco a quello che ha detto Sandra Stotto l'altra volta. Qua le teologhe si accaniscono, perché se è lei a parlare, quindi è lei che sveglia lui all'amore, perché veramente cosa succede? Sotto il melo ti ho svegliato, là dove gemette tua madre, dove tua madre ti ha dato alla luce, significa che è la donna che risveglia l'uomo all'amore e gli fa scoprire l'amore. L'uomo fa un po' la figura del fessacchiotto, perdonatemi, perché è quello che non sa nulla dell'amore e vive, come si può dire, la vita ignorandolo, e viene risvegliato all'amore, ritornando alle sorgenti della vita, là dove gemette tua madre, e viene quindi portato ad aprirsi all'amore. Questa è la classica lettura. Compito della donna sarebbe risvegliare l'uomo all'amore, che fa un po' la figura del fessacchiotto. Ma questa, secondo le teologhe femministe, è una lettura patriarcale, che conferma una lettura patriarcale della società e della donna. Quindi sappiate che questo testo si può leggere sia al maschile che sia al femminile. Può essere lui che sveglia lei, può essere lei che sveglia lui, perché il testo, con la grammatica del testo, consente entrambi. Un altro passaggio però, il verbo orartika, se voi andate nella Bibbia greca, nella Bibbia dei 70, che è la traduzione in greco dell'Antico Testamento, trovate il verbo egeiro. Il verbo egeiro è un verbo che, per chi conosce il Nuovo Testamento, è un verbo molto indicativo, perché significa risuscitare, rialzare, risvegliare, ma risvegliare dalla morte. E infatti è il termine che si trova in tanti passaggi, ma uno per tutti, Luca 7,14, la resurrezione non della vedova di Nain, cosa ho scritto, ma del figlio della vedova di Nain. Ci manca un pezzo. Vabbè, diventata, no, non la vedova di Nain, è il figlio della vedova di Nain. Sì, quindi attenzione a questo ti ho svegliato, perché nella Bibbia greca diventa egeiro, egeiro significa ritornare alla vita. Però, e viene usato con questo senso nel Nuovo Testamento. Anche Lazzaro, no? Sì. Alzati e cammina. Alzati, spessissimo. Questi termini, risvegliare, hanno proprio il significato non di svegliarsi da sonno, ma di svegliarsi proprio dalla morte. L'amore di chi ama, quindi, in generale, che sia l'uomo a svegliare la donna, la donna a svegliare l'uomo, fa rinascere alla vita. Risveglia dal sonno dell'oblio, dell'incoscienza, del vivere la vita così come viene, forse, senza profondità. L'amore porta fuori dal deserto e indirizza la persona alla luce, alla vita, al paradiso. Mi dimenticavo di dirvi una cosa. che nella Bibbia c'è un paradiso all'inizio, c'è un germoglio, un giardino terrestre all'inizio, c'è un giardino alla metà, ma ce n'è anche uno alla fine. Attenzione che del paradiso terrestre c'è all'inizio, c'è la metà nel Cantico, ma del paradiso si parla anche alla fine. È come un lungo filo che la Bibbia tende in tutti i testi. Il sigillo. Allora, questa storia del sigillo. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio. Allora, portava praticamente i sigilli, erano dei tondini conici, dei tondini praticamente a forma di cilindro che portavano al collo, perché l'unica maniera per firmare i documenti era usare i sigilli e ognuno aveva il suo, soprattutto persone di un certo rilievo, e li portavano al collo ed erano dei cilindretti praticamente, e nella testa del cilindretto chiaramente c'era il simbolo che poi veniva impresso. Per cui, per quello c'è scritto mettimi come sigillo sul tuo cuore, sì certo lo portavano qui, o sigillo sul tuo braccio, erano questi sigilli che usavano per firmare. Il sigillo che cosa esprime? L'indissolubilità dell'unione, che finalmente i due hanno raggiunto dopo la crisi. Se l'unione si scioglie, chiaramente il sigillo si rompe. La rottura del sigillo significa anche la rottura del rapporto. Ma parlare di sigilli nella Bibbia fa venire in mente un altro testo famoso, che è un testo dal libro del Deuteronomio. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi sul cuore, te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi. Sono quelle famose scatolette che vedete che gli ebrei più osservanti legano con dei lacci di cuoio alla fronte e al braccio. Sono quelle, esattamente quelle. Vedete che cosa succede? Quello che vi dicevo prima. Il Cantico traspone all'amore umano espressioni usate per parlare dell'amore divino. In questo caso il sigillo, i precetti che stanno sul cuore, oppure che devono stare come pendaglio tra gli occhi o legati al braccio. Ma qui nel Deuteronomio si sta parlando del rapporto tra l'uomo e Dio, ma quello stesso simbolo viene utilizzato per parlare dell'amore umano. Tra amore umano e amore divino il Cantico scorge una contiguità profonda. L'uno rimanda costantemente all'altro. L'amore umano rimanda a quello divino rimanda a quello umano, costantemente. La gelosia. La gelosia si ricollega al carattere esclusivo dell'amore, ma anche nella Bibbia si parla di gelosia. Il primo geloso è Dio. Il primo geloso è Dio, uno dei passaggi tra i tanti, è Esodo 34,14. Tu non devi prostrarti ad un altro Dio. Di chi è geloso Dio? Delle altre divinità, perché chiaramente ogni tanto Israele cadeva nel culto di altri dei che sembravano migliore del Dio del Sinai, sembravano far ottenere vittorie oppure favori più che il Dio del Sinai. Ogni tanto Israele nell'idolatria ci cade, anche perché non è che Israele viveva nella terra promessa e lì non c'era nessuno, attorno c'erano pure, nella terra di Israele e attorno c'erano gli altri che avevano tante altre divinità, e a volte le altre divinità sembravano meglio del Dio del Sinai, del Dio di Israele, e quindi lui è un Dio geloso. Tu non devi prostarti ad altro Dio, perché il Signore si chiama geloso, si chiama geloso. Egli è un Dio geloso. Ma pure l'apostolo Paolo si definisce tale e riprende esattamente questa espressione dell'Antico Testamento. Sono infatti geloso di voi con la gelosia di Dio. Mi raccomando, nella Bibbia c'è scritto: sono infatti geloso di voi con una specie di gelosia divina. Allora, pudore, lì è il pudore della CEI, togliete quella specie che non ci sta. C'è scritto proprio: sono geloso di voi con la gelosia di Dio, punto. la specie di gelosia di Dio, toglietelo, perché non c'è. Perché Paolo è geloso? Qua siamo nella seconda lettera ai Corinti e, per dirla con semplicità, le comunità di Corinto le aveva fondate lui, solo che a un certo punto arrivano dei missionari itineranti giudaizzanti, i quali ottengono molto favore da parte dei membri delle comunità di Corinto. Questi cominciano a seminare praticamente nel terreno di Paolo. E Paolo, che aveva dato la vita per queste persone, le aveva generate la fede, si trova adesso a che fare con questi missionari giudaizzanti che hanno deviato totalmente la sua comunità. E quindi è arrabbiato, è frustrato, è depresso, viene messa in crisi la sua autorità e via dicendo. E lui dice: io sono geloso di voi con la stessa gelosia di Dio. Vi ho promesso l'unico uomo, notate la metafora sponsale, in questo caso è Cristo, come infatti per presentarvi a Dio come una vergine casta. Io vi ho promesso a Cristo come una sposa casta. Cioè non dovete andare dietro ad altre interpretazioni del Vangelo, perché io ho promesso di vegliare su di voi e di portarvi a Dio come una vergine casta, che non si è corrotta né con altri culti né con altre interpretazioni del Vangelo. Ci siamo? Esisteva nel mondo ebraico il famoso amico dello sposo, che aveva compito di custodire la sposa fino al momento delle nozze. E Paolo attribuisce a sé, ma anche San Giovanni, Giovanni Battista, nel quarto Vangelo, attribuisce a sé, attribuiscono a loro stessi, la figura dell'amico dello sposo. Cioè noi siamo coloro che vegliamo sulla sposa, in questo caso la comunità, la Chiesa, per portarla come una vergine casta a Dio. Quindi c'è tutta una serie di rimandi. Interessante, il termine ebraico per dire fiamma è Reshep, che però è il nome di una divinità orientale. Praticamente, lì c'è scritto, i suoi dardi, cioè i dardi dell'amore, sono dardi di fuoco, una fiamma di Yah. Ma lì il termine fiamma è il termine di una divinità orientale. Cosa succede? Vedete, il termine che indica una divinità orientale viene accostato, fiamma di Yah, al termine Yah, che è un'abbreviazione del tetragramma sacro. Infatti basta notare Alleluia, che lì c'è il termine Yah. L'amore che cos'è? È una fiamma di Dio. L'amore non è qualcosa che è lontano da Dio, che non ha a che fare con Dio, perché Dio è sacro, sta là nel suo mondo e le cose umane sono corrotte e quindi non lo devono toccare. No, non funziona così. L'amore è una fiamma del Dio di Israele, che si contrappone a che cosa? A quella bella divinità orientale che viene nominata una parola prima. Poi si parla di grandi acque. Quando nel mondo antico si parla di grandi acque, di fiumi, viene in mente sempre una cosa, cioè a tutta quella serie di miti che riguardano la cosmogonia, cioè l'origine del mondo, e le divinità che lottano con le forze avverse, che lottano con il caos per ristabilire l'ordine. Quindi le grandi acque, i fiumi, tutte cose che hanno a che fare con le cosmogonie babilonesi. Ci siamo. Che però quando si parla di acqua nella Bibbia viene in mente anche Mosè che separa le acque affinché gli israeliti possano attraversare il mare sull'asciutto senza annegare. Gli israeliti possono attraversare il mare senza annegare. Gesù cammina sulle acque, meglio su un lago che viene chiamato mare ma in realtà è un lago, ma camminare sulle acque, sul mare, significa dominare il male, la morte, il caos primordiale. Il mare nella Bibbia ha sempre significato negativo. Ha a che fare con il male, ha a che fare con la morte, ha a che fare con il caos primordiale. Ricordatevelo sempre. Cosa dicono i nostri versetti? I nostri versetti dicono che le realtà negative, cioè le grandi acque che rappresentano il male, il caos, non possono vincere l'amore. Sono più forti. L'amore è più forte della morte, del caos. Ultimo versetto. L'amore non è acquistabile con i soldi. È quello che vi dicevo all'inizio. Questa affermazione doveva essere chiaramente molto più assertiva nel mondo ebraico, doveva essere qualcosa di molto più evidente, perché per noi è normale che nel matrimonio ci si sposi per amore, insomma, che si scelga una persona per amore, per noi è normale. Invece in quel mondo no, il matrimonio era un contratto economico tra due famiglie coinvolte e spesso l'amore non c'entrava niente. Ci siamo. Invece qui che cosa fa? Che cosa abbiamo nel cantico? Nel cantico abbiamo sì chiaramente due persone che sono indirizzate verso il matrimonio, questo è evidente, non sono due amanti clandestini, ma andiamo oltre il contratto matrimoniale. Ultima slide. Il testo illumina il rapporto con Dio. È una fiamma di Yah, ma a parlare di fiamme nella Bibbia viene in mente un altro testo, che è il testo dell'Esodo, dove Mosè vede questo famoso roveto ardente che brucia e non si consuma. Quindi l'amore è una fiamma di Yah, cioè che significa che partecipa degli attributi divini. Lo stesso Dio si presenta a Mosè come un roveto che arde e non si consuma. Ma la conseguenza di questo è anche un'altra cosa, che noi abbiamo per educazione, per cultura, un'immagine di Dio che ci portiamo dentro e che secondo me va ripensata e molto rivista. Tra l'immagine che noi ci portiamo per cultura, educazione, metteteci quello che volete, ci portiamo dentro, e ciò che Dio è, mi sa che bisogna fare un bel restauro, perché c'è parecchia distanza tra ciò che il testo biblico ci rivela e ciò che naturalmente mi viene da dire anche ognuno di noi si forma come immagine di Dio. Ognuno di noi, credente o non credente, ha un'immagine di Dio per cultura, per educazione, per quello che ha letto, per natura, secondo me, ha un'immagine di Dio che si forma, ma chiaramente è un po' distante, secondo me, da ciò che il testo biblico ci rivela. Il cammino dell'uomo forse si caratterizza per essere un percorso di ricerca non dritto, ma ci sono deviazioni, ci sono deserti, ci sono tante stanchezze, ed è un cammino di ricerca del vero volto di Dio. Probabilmente il Dio che desideriamo e cerchiamo è più vicino a noi di quanto noi stessi pensiamo. Siamo noi che siamo miopi, probabilmente. È la nostra vista che non è adatta, è il nostro spirito, è la nostra intelligenza, che sono pigri, chiusi in sé, pieni di preconcetti che ci mettono sulla strada sbagliata. Noi abbiamo bisogno di liberarci di tutto questo, ma chiaramente non è qualcosa che viene dalla sera alla mattina. Dio si adatta ai nostri tempi e segue il nostro cammino alla sua scoperta insieme a noi. Dio sta vicino a noi in questo cammino di ricerca nel quale progressivamente ci spogliamo forse di tutto ciò che con lui non ha proprio a che fare. E il testo del cantico forse sì, è vero, è stato utilizzato tantissimo negli ultimi anni, chiaramente perché veniva utilizzato per rivalutare l'amore umano, la sessualità umana, dopo secoli nella quale la Chiesa ha sempre svilito tutto ciò. Quindi negli ultimi trovate tantissimi testi che parlano di questo, della valorizzazione dell'amore umano, del Cantico dei Cantici, usciti negli ultimi decenni, ne trovate tantissimi, perché chiaramente dopo secoli nel quale la Chiesa ha sempre svilito la sessualità umana, l'amore umano, questo testo era un po' il paladino invece della sua valorizzazione. Ma secondo me è anche un testo che volutamente, perché percorre entrambi questi binari, vuole aprirci sul volto di Dio, che è un volto di Dio che naturalmente non ci portiamo con noi. ha molto di Dio un po' da scoprire, anche se vedete che l'allusione è una sola, fiamma di Yah. Nel Cantico di Cantici nomina Dio una volta sola, ma non significa nulla, perché in realtà c'è anche nel resto del testo. E qui mi fermo e vi lascio le vostre domande. Grazie mille dell'attenzione, grazie della pazienza.